È mercoledì 23 maggio, intanto i titoli per il Sole 24 Ore, l'apertura per i crediti, la pubblica amministrazione, primo sblocco, recuperabili anche i contributi, questa è l'apertura. Così il Corriere della Sera, le imprese 20-30 miliardi, il Messaggero, imprese, il piano del governo, anche per Avvenire sbloccati fondi per le imprese e il Secolo XIX, soldi alle imprese, tagli ai partiti. Anche per La Stampa sbloccati 30 miliardi di crediti per le imprese. E poi c'è la politica che domina altre prime pagine dei giornali dopo i ballottaggi. Esplode la crisi del PDL, Alfano commissariato, così titola in prima pagina Repubblica. Per il Fatto Quotidiano Grillo divide il PD e il PDL si scioglie. Libero, lettera ai vertici del PDL, dimettetevi tutti. Mentre il Giornale, primi fischi a Monti, sono i fischi ricevuti quando è andato ieri tra i terremotati. L'Unità, crack PDL e Grillo insulta il PD. Mentre a prova di bomba la vicenda di Brindisi e l'apertura del Manifesto. Io però voglio partire da una vicenda che trovate in prima pagina sul Giornale con una foto, ma invece il Corriere della Sera vi dedica una pagina. E qui la foto è fondamentale, è il caso in cui la notizia deriva da una foto. La foto è quella che ritrae il neo sindaco, per la verità sindaco confermato di Taranto, Ipazio Stefano, che viene immortalato nel suo comitato elettorale quando viene nominato sindaco. E allora lui cosa fa? Esulta, alza i calici, alza il bicchiere, si apre la giacca, viene immortalato in una foto e che cosa c'ha nei pantaloni? Una pistola. Ma come una pistola? Ipazio Stefano, sindaco vendoliano, pacifista, gira con una pistola nella cinta. Il sindaco vendoliano e pacifista con la pistola alla cintola, così titola il Corriere della Sera. È uno straordinario ritratto di Goffredo Buccini, lo trovate a pagina 24. Stefano, mi prendono a schiaffi se qualcosa non va. Ho già subito 14 aggressioni. E scrive Buccini, è come scoprire che Bambi gira con arco e frecce, che la nave di Greenpeace trasporta bazooka nella stiva, che Don Abbondio mena sciabolate peggio del Griso. Incredibile, no? Eppure non si scappa, le foto sono inequivocabili, mano armata. Lui, Ipazio Stefano, detto per comunità Ezio dai fan, appena rieletto sindaco di Taranto, alza le braccia trionfanti nel comitato elettorale, sfodera un ghignaccio da coniglio feroce e tac! Sulla camicia candida a fine giornata gli si staglia il calcio di una pistola tamburo infilata nei pantaloni. E lui sbuffa, dice, beh sì, la porta è una vecchia pistola tamburo, regolare porto d'armi, non so la marca, non sono mica un guerriero. Avendola, l'ha detto, l'avrà scoperto dai giornali, uffa, senta, avrei potuto strillare in campagna elettorale, invece sono stato muto, non volevo infangare il nome di Taranto, non volevo si pensasse che i tarantini sono violenti. Ma insomma, è un Ipazio Stefano che dice, sa cosa vuol dire fare il sindaco qui? Ci sono state 14 aggressioni, 14 con coltelli, a schiaffi, la benzina mi hanno tirato addosso, poi non le dico gli insulti, lo Stato non consegna le case e quelli vengono da me, sprofonda la statale, sempre da me vengono, 15 vigili urbani sono finiti all'ospedale, allora io dicevo ragazzi scansatevi, me la vedo io, la gente sa dove abita, dove abito, mi aspettano sotto casa. Quasi sempre per parlarmi, ma certe volte non solo mica per parlare. Io sto lì. Da quando sono sindaco sono diventato iperteso. Lui dice, io sono anche un medico. In Africa ho fatto il volontariato per un anno e mai nessuno ha provato ad assalirmi. Qui invece. Fare il sindaco al sud è un inferno. Ho perso 14 chili, un chilo ad aggressione, racconta Buccini. Di questo passo rischiava di diventare l'uomo invisibile. E allora meglio Tex Willer, con la pistola nella cintola. Il sindaco di Taranto, Ipazio Stefano, gira così, armato. E dice, non posso mica pensare di sapere tutti quelli che si avvicinano a me che cosa vogliono in realtà. Però assicura, non ho mai tirato fuori quella pistola. Rimane nella cintola. Chissà se è carica, chissà se c'è la sicura. Non lo so, però certo fa molto specie. Il sindaco di Taranto che gira armato. Notizie dalla politica, il Parlamento ce l'hanno fatta, è una buona notizia oppure no? È un bicchiere mezzo pieno, un bicchiere mezzo vuoto? Mezzo è la parola giusta perché i partiti hanno votato il primo sì alla legge che dimezza i rimborsi elettorali. I rimborsi ai partiti saranno dimezzati già da giugno. La Camera vota i tagli, metà. Vi vanno bene, cari ascoltatori? La Lega dice di no. E oggi la Padania pubblica tutti i nomi di coloro che hanno votato quella che viene definita una ipocrisia, perché la Lega, insieme all'Italia dei Valori, chiedevano invece di cancellarli in toto il finanziamento pubblico ai partiti. E dunque la Lega tuona, hanno salvato metà finanziamenti. Guardate, di questi tempi accontentiamoci che li abbiano almeno dimezzati, accontentiamoci di questo, perché è già tanto. Io dico, certo, si possono fare le battaglie, ma è già tanto che sull'onda delle polemiche i rimborsi ai partiti saranno dimezzati e già da giugno, già dalla tranche che viene erogata ogni anno proprio di questi tempi a giugno, quindi non più 180 milioni ma 90 milioni e così dovrebbe essere d'ora in poi. Non più la cifra intera ma metà di quello che prendono. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno e ci sentiamo tra 5 minuti. Alle 7.35 minuti allora, e sui giornali trovate ancora molti commenti dopo le amministrative, la politica. Ah, devo tornare un attimo sulla questione di Pazio Stefano. Quanti mi scrivono se la pistola che usa è a tamburo non ha la sicura? Tutti espertissimi, espertoni di armi, vedo i miei ascoltatori. Comunque, allora, la politica, il linguaggio di Beppe Grillo, ieri se l'è presa un po' con tutti, il PD è quasi morto, gli zombie, i partiti zombie, è quasi morto Bersani, e poi Matteo Renzi è lebetino da Firenze, insomma tutti così, tanto che oggi Michele Serra nella sua amaca su Repubblica scrive: i partiti spariranno in un peto, i loro leader zombie, morti, quasi morti, un'accolita di fantasmi incapaci, persone indistinte, non uomini indegni di incarnare un'idea, destra uguale a sinistra. Ma il linguaggio del leader, del loro leader, Beppe Grillo, scrive Serra, è un problema grosso come una casa. Il movimento delle 5 Stelle merita rispetto, non è antipolitica, è impegno civile, ma appunto il linguaggio del loro leader è un problema grosso come una casa, un linguaggio carico di disprezzo, maneggia la morte come l'insulto definitivo, non riconosce mai dignità all'avversario, è ignobile e ripugnante quanto il latrato leghista. Usciamo da 20 anni di semplificazioni rozze, parole usate come sputi. Possibile che la nuova politica usi un linguaggio così vecchio? Possibile che nessuno del movimento osi chiedere al capo di non urlare e soprattutto di non urlare quelle cose? Vabbè, ma si sa, Beppe Grillo è così, non è che si scopre da oggi che utilizza questo linguaggio, questi epiteti nei confronti di quelli che sono diventati degli avversari politici a tutto tondo. Ancora rimane in primo piano, lo sarà ancora per qualche giorno, con interviste cercheranno di scoprire tutti i giornalisti cosa farà ora il neo sindaco di Parma Pizzarotti. Oggi vi segnalo un'intervista su Repubblica di Michele Smargiassi, che lo segue un po', un'intera pagina, pagina 9, con la moglie di Pizzarotti che freme, Cinzia. L'esordio, si è subito mostrata molto agguerrita, soprattutto nei confronti dei giornalisti. Buondì, quando ve ne andate? Questo è l'esordio della moglie di Pizzarotti al giornalista che vuole intervistare il neosindaco, che dice alcune cose interessanti. La politica è una cosa bella, sono i partiti che non ci servono. Riguardo a Parma ha eletto noi, non Beppe Grillo. Le danno dell'incompetente, hanno ragione, non ho mai fatto neppure il consigliere comunale, ma è un vantaggio, ho voglia di imparare, umiltà di ascoltare, le competenze ci sono già nella macchina comunale, bisogna solo dare una direzione giusta alle scelte. Riguardo alla maggioranza e l'opposizione, a Parma faremo a meno anche di questo, prenderemo quasi tutte le decisioni all'unanimità se lavoriamo per il bene della città, i programmi sono sempre molto simili. Sono i giochetti politici di solito che dividono. Io non voto la tua mozione, anche se è giusta, perché è la tua e non la mia. Noi non faremo così e chiederemo a tutti di cambiare stile. Riguardo all'inceneritore, cercheremo di evitare le penali, apriremo una trattativa per la riconversione, troveremo soluzioni ponte, come spedire rifiuti in Olanda. Lì non governiamo noi, hanno fatto scelte che ora li obbligano a importare rifiuti. Se non ce la faremo, chiederemo ai cittadini con un referendum se vogliamo tutti assieme pagare le penali o tenerci l'inceneritore. E poi ribadisce di fronte alle domande del giornalista, cioè sembra giornalisti che fanno le domande vecchio stampo, no? Per esempio sul programma, le maggioranze, e il candidato del Movimento 5 Stelle che dà delle risposte spiazzanti, dire ma ha capito che le cose qui sono cambiate, dice a un certo punto Pizzarotti, da oggi si condivide tutto, basta questi giochetti, basta a pensare gli uni contro gli altri. C'è anche questa teoria, tra l'altro finisce l'intervista e dice me ne vado, è arrivati alla mia auto blu. Si scusa Pizzarotti e sale su una multipla grigia ammaccata di un'amica. C'è anche questa teoria che tutti i giornali lanciano della possibile creazione quasi di una moneta parallela. Sapete che Grillo ha detto bisogna uscire dall'euro. E a Parma ci sono due professori della Bocconi, Massimo Amato e Luca Fantacci, che stanno studiando che cosa? Mario Aiello lo spiega sul Messaggero: usare una moneta parallela con la quale, visto che le banche attaccate dai grillini non vogliono fare sconti né concessioni, poter ripianare il mostruoso debito comunale che ammonta a 600 milioni di euro. Una sorta di zecca municipale, una sorta di moneta parallela. Staremo a vedere che combinerà. Certo, a proposito di soldi, grillini, anche se non amano essere definiti così, e tasse, non aiuta la dichiarazione invece del neosindaco, sempre del Movimento 5 Stelle, di Sarego, provincia di Vicenza, che dice alla stampa, fa questa dichiarazione, forse bisogna dare una giustatina alle tasse. Ma come una giustatina alle tasse? Non sai che Beppe Grillo ha tuonato contro l'aumento delle tasse? La so. Ma l'IMU non copre le entrate attuali, mi piacerebbe dire di no, ma la dura realtà potrebbe essere una aggiustatina alle tasse. Così il sindaco Castiglion a Sarego, un aumento delle tasse. E beh, alla fin fine, si va a cadere sempre lì. Gli altri partiti non saranno zombie, non saranno morti o quasi morti, come dice Beppe Grillo, ma sono in grande subbuglio, soprattutto il Popolo della Libertà. Il Popolo della Libertà, basta vedere alcuni titoli, Libero con l'editoriale di Maurizio Belpietro, adesso dimettetevi tutti, ma anche all'interno dello stesso Popolo della Libertà molti scalpitano, per esempio Scajola che sul Corriere della Sera in un'intervista dice ora bisogna cambiare tutto. Anzi, scusate, è su Repubblica, ecco perché non la trovavo, sfogliavo il Corriere della Sera, invece è su Repubblica, eccolo qui, a pagina 2, Scajola dice azzeriamo tutto senza perdere tempo e Angelino Alfano deve cambiare ruolo anche lui. Vi segnalo riguardo a questo che la tentazione di Berlusconi sarebbe quella di tornare a fare una lista civica nazionale con lo spirito del 94. C'è il retroscena di Repubblica, firma Claudio Tito, che dice così: Berlusconi ha intenzione di azzerare, nel senso di commissariare, il segretario del PDL Alfano. Nell'ultima trincea berlusconiana, scrive Claudio Tito a pagina 3, solo pochissimi ieri riescono ad avvicinarsi a lui: Gianni Letta, Fedele Confalonieri, Paolo Bonaiuti, gli altri restano lontani. Cosa avrebbe detto ieri Berlusconi? Avrebbe detto questo: se avessimo già fatto in questa occasione le liste civiche staremmo parlando di un'altra storia, ma la Russa mi diceva che bisognava strutturare il partito, Angelino che disorientavamo, ecco invece come abbiamo orientato, bel capolavoro. Così avrebbe commentato con i suoi Silvio Berlusconi le elezioni, e adesso vuole azzerare tutto, compreso il suo figlioccio Angelino, questo almeno scrive Repubblica. Purtroppo non esiste, avrebbe detto di Alfano, ci sono solo io posso salvare, solo io posso candidarmi come leader e lo farò, credetemi. Insomma, Berlusconi che ai suoi, almeno secondo questo retroscena di Politica, avrebbe detto torno in campo io, di fatto. La tentazione di Berlusconi anche per il giornale azzerare tutto e tra l'altro viene identificato dal giornale, da Adalberto Signore a pagina 3, l'uomo che avrebbe fatto cambiare idea a Berlusconi. Si tratta del candidato sindaco a Monza di 30 anni, Paolo Piffer, che con la sua Primavera Monza e Cambia Monza ha raccolto al primo turno il 5%, tanto che Berlusconi sarebbe stato colpito al punto di alzare il telefono e invitarlo ad Arcore per cercare di capire le ragioni di un simile risultato. Incontro ad Arcore con poi Berlusconi che avrebbe telefonato ad Alfano per dirgli in presa diretta: Angelino, c'è qui un ragazzo che dice che non capisco niente di politica. Paolo Piffer sarà lui il nuovo spin doctor, come si usa questa espressione americana, di Berlusconi per il lancio del Popolo della Libertà. Staremo a vedere. Noi, come detto, avremo ospite Matteo Richetti, il presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, una delle regioni più colpite dal sisma. Sui giornali tutti raccontano dell'IMU sospesa, niente tassa sulla benzina. Scolpitevi nella mente queste parole: per il momento. C'è scritto tra parentesi: per il momento, da parte del governo, niente aumento dell'accisa sulla benzina. Ricordatevelo, è il 23 maggio del 2012. Non ci sarà l'aumento di fino a 5 centesimi dell'accisa nazionale sulla benzina per coprire i soldi per i terremotati. Se poi ci sarà, queste parole sono rimaste scolpite. Sono 13.000 i lavoratori fermi, c'è la mappa delle fabbriche chiuse, la situazione è difficile. Sono arrivati anche i primi fischi per Mario Monti. Arriveranno 50 milioni di euro per le regioni e le zone colpite, ma sono arrivati anche i primi fischi. Tanto che Iena, sulla stampa, Riccardo Barenghi, a pagina 3, numeri. Ieri in Emilia Monti ha scoperto che qualche volta anche i numeri si incazzano. La situazione comunque è difficile, ne parleremo alle 8.20 con la gente, qualcuno che ha gridato ladri, rapinatori, volete l'IMU anche sulle case cadute? Questa l'accusa a Monti. E noi ripartiamo dalle altre notizie dopo le informazioni sul traffico. Buone notizie invece per le imprese italiane, questo almeno a leggere tutti i giornali, era annunciato, è arrivato, è il titolo d'apertura del Sole 24 Ore, il fatto che siano stati sbloccati e possono essere sbloccati fino a 20-30 miliardi per le imprese con i 4 decreti per sbloccare i debiti della pubblica amministrazione verso appunto le imprese italiane. Sono 2 decreti sulla certificazione con le norme ad hoc per gli enti locali, 1 sulle compensazioni, dunque la possibilità di cancellare anche i debiti contributivi, l'altro sul fondo di garanzia che scatta nelle cessioni. Tutti i dettagli li trovate a pagina 2 e 3 del Sole 24 Ore con Marco Mobili, che racconta appunto come funzionano questi decreti per chi appunto ha, e sono tante le imprese, a debiti con la pubblica amministrazione. Da qui parte la conversazione, l'intervista che Alberto Orioli fa a Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria uscente. Oggi c'è il cambio della guardia, quindi alla fine dei suoi 4 anni di mandato, Emma Marcegaglia: missione compiuta, ora torno in azienda. La recessione ha bloccato il processo di rinnovamento, ha detto Emma Marcegaglia in questa intervista, che poi trovate un'intera pagina, continua, inizia in prima pagina e poi continua a pagina 5. Riguardo appunto a questi crediti, a questi decreti che hanno sbloccato i crediti delle imprese verso la pubblica amministrazione, dice Emma Marcegaglia: ho detto al viceministro Grilli che mi ha fatto un regalo di fine mandato, premesso che la soluzione vera e auspicabile è che lo Stato paghi tutto e sempre nei tempi concordati. Va detto che erano anni che chiedevamo la certificazione dei crediti vantati presso le amministrazioni. Finalmente è arrivata, con la possibilità di compensare i debiti fiscali, IRAP e IMU comprese, e anche i debiti con INPS e INAIL. Parla anche della politica e del governo Monti. Siamo stati tra i pochi a sostenere il governo Monti, dice Marcegaglia, nella sua azione di riforma delle pensioni, nonostante rappresenti un costo anche per le imprese. Abbiamo sostenuto l'esigenza di fare le manovre correttive, ma abbiamo alzato la voce quando sulla riforma del lavoro il governo è tornato indietro rispetto ai suoi stessi passi in tema di flessibilità in ingresso e uscita. La riforma rimane un'occasione persa, ma con la messa a punto del Parlamento il testo finale sembra migliorato. insomma, una sua lunga intervista, conclude poi: dopo l'ultimo giorno torno in azienda. È un gruppo importante, molto internazionale, poi non vedo l'ora di dedicare tutto il tempo che merita alla mia bimba. Così Emma Marcegaglia. Comunque l'intervista poi ovviamente è più completa e la trovate sul Sole 24 Ore a pagina 5. La cronaca si impone ancora con Brindisi, la vicenda che ha portato, beh, intanto a due aspetti. Ci sono le indagini, con adesso si cerca, forse c'è un altro sospetto. Questa volta però, cari giornalisti, colleghi, magari evitiamo di darne nome, cognome, indirizzo di casa per evitare il quasi linciaggio che ha rischiato questo signore che è stato fermato ieri, l'altro ieri per la verità, portato in questura per varie ore, considerato il sospettato numero uno. Chi è stato a mettere questa bomba? Ora si cerca in tutta Italia. Il problema è che probabilmente non è di Brindisi, quindi si ha una foto di lui ma non se ne conosce l'identità. Quello che si conosce è lo scandalo, la vergogna che c'è stata del linciaggio mediatico, che rischiava davvero di trasformarsi in un linciaggio vero e proprio per questo signore. Ancora oggi il Messaggero ne dà il nome, ma ormai non è un mistero: Claudio Strada, di 48 anni, di Brindisi. Io mostro per un giorno, in questura pensavo, chi porta mia figlia a casa, racconta a Marco Imarisio a pagina 23 del Corriere della Sera, ma vari giornali vanno a intervistarlo. Mi rendo conto di essere una persona interessante, ma il computer ora per ora non lo accendo, e scrive Imarisio, fa bene, perché leggerebbe gli insulti, le minacce, il prossimo che salta in aria sei tu. Per non parlare poi degli insulti. A un certo punto ho pensato che mi avrebbero arrestato, erano gentili, mi rassicuravano, ma intanto mi tenevano lì con sua figlia di 3 anni. È stato fino alle 3 di notte in questura. E che succede? Niente, succede che appunto i giornali, alcuni giornali, alcuni giornalisti, il Giornale per esempio se la prende con Sandro Ruotolo, l'inviato di Michele Santoro. Ruotolo massacra il finto mostro, il suo popolo del web lo insulta. Il braccio destro di Santoro si fa prendere dall'ansia da scoop e pubblica nome, cognome, foto della casa di un sospettato. Pare addirittura, secondo il Corriere della Sera, che quando è tornato a casa ci fosse una folla ad aspettarlo, e questo è vero. Alcuni venivano da Mesagne, il paese dove, dove c'è la vittima, in paese delle ragazze colpite. Alcuni pare che avessero nel bagagliaio della macchina mazze e spranghe pronte. Avete capito che cosa ha rischiato questa persona? E poi non c'entra nulla. Tra l'altro Marco Imarisio lo racconta, è almeno 10 centimetri più alto dell'uomo descritto in video e con un giro vita di almeno altri 10 centimetri. Si vede abbastanza chiaramente che non è lui. Sta di fatto che si brancola un po' nel buio e chissà dove è l'uomo che ha colpito. Che devo fare, Peter Alpino? Devo salutare? Finiamo tra le 54, alle 7:54, quindi tra 30 secondi. C'è solo da dire questo. Ecco, vi ricordate il console fascio rock Vattani, colui che fu Mario Vattani, console onorario, console generale d'Italia a Osaka in Giappone, immortalato che cantava una canzone fascista? A circa 12 mesi, un anno dalla sua esibizione su un palco, il Corriere della Sera fa sapere a pagina 19 che succede al console fascio rock. Rimane in diplomazia. E che diamine, che problema c'è? Ha avuto una sospensione di 3 mesi, sospensione dello stipendio, ma la Farnesina ha ritenuto questo sufficiente. Rimane lì, nessuno lo tocchi, rimane in diplomazia. Vattani, il console fascio rock. Il Giornale Radio.